dovrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone, e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, e vengo anch'io, no tu no. Perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io, no tu no, con la bella sotto braccio a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma vengo anch'io, no tu no. Perché? Perché no? Potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io, no tu no, dove ognuno sia già pronto a tagliarti una mano. Un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, no vengo anch'io, no tu no. Perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io, no tu no, per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no. Allora ecco la trasmissione domenicale di Vengo anch'io. Oggi vogliamo ricordare un nostro ascoltatore che ingiustamente è stato privato dalla propria libertà e portato a Regina Coeli con un reato che lo rivendico, l'avrei fatto pure io se ci avessi avuto il coraggio di questo compagno. Stiamo parlando di Nunzio Terme, che è un ascoltatore di questa trasmissione. Siamo sicuri che dalla cella ci sta ascoltando, sicuramente, perché ci ha sempre ascoltato e sempre dato un contributo. Penso che pure da questo spazio ristretto sicuramente avrà trovato il modo di ascoltare questa trasmissione. Il pensiero va a lui, va a Marco e va a Paolo, va a Luca, va a Alberto, va a Sara, va a tutti i compagni che sono ristretti per avere praticato l'antifascismo, per essere intervenuti in difesa dei problemi reali, i problemi sociali, in difesa dei più desiderati. Il reato di Nunzio, cioè, quasi è come un elogio, viene denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per complicità all'evasione. Che è successo? È successo che Nunzio ha cercato di impedire una provocazione fascista all'interno di un convegno organizzato dalle istituzioni contro il sessismo. Sono arrivate delle provocazioni da parte di miliziacristi, una cosa normale, che non consentano provocazione a Fabri Striscione o a distribuire volantini che dicevano cose provocatorie. Da questa situazione nasce una parapia. La generosità di Nunzio la conosciamo tutti, tutti sappiamo che Nunzio, quando ci sono cose di questo tipo, si mette in mezzo per cercare di proteggere e di difendere i compagni. Dentro questa parapia si trovano dei poliziotti in borghese che manco sapevano che erano poliziotti, che cercano di portare via un ragazzo, un giovanissimo ragazzo che si è trovato in mezzo. Nunzio interviene e l'aiuta a dar via. Cioè, io mi sembra che questa è la descrizione, se fossimo dei borghesi, la motivazione per dargli una medaglia, non per mandarlo in carcere. Cioè, io non mi sento assolutamente di pensare che per queste motivazioni oggi si può stare in galera. E allora questi sono i segnali pesanti che stanno arrivando e il movimento se ne deve rendere conto. Oggi invito gli ascoltatori, dato che Nunzio ci sente, chi lo vuole salutare, chi gli vuole portare la solidarietà, chi vuole dire qualcosa può telefonare alla radio. Il numero è classico, sicuramente ve lo ricordate, che è lo 06 49 17 50. Sicuramente lui ascolterà le telefonate, i saluti che i compagni gli vorranno fare. Manderemo in onda queste telefonate che arriveranno e poi magari danno pure un contributo alla discussione che noi intendiamo portare avanti. Prima di introdurre il discorso che vorremmo portare avanti, lo dico subito, il tema è che Roma è stata più volte invasa. L'ultima disastrosa invasione è stata i Lanzichenecchi nel 1526. 1527. 27-26, insomma, giù di lì. E poi l'altra invasione è cominciata una ventina d'anni fa con Rutelli, Veltroni, Alemanno e adesso Marino, in cui questa città sta subendo gli stessi danni che hanno fatto le invasioni barbariche e dei Lanzichenecchi. Perché poi vorremmo discutere di come è ridotta questa città. Ogni cittadino ci può raccontare da dove telefona, se gli scaricano la monnezza, se c'è la strada piena di buche, se ogni volta che piove c'è il rischio che rimane sotto un albero o che si allaga, che muoversi con i mezzi pubblici in questa città diventa una questione quasi impossibile, impraticabile, che ti deve attrezzare in una condizione assolutamente eccezionale. Vorremmo parlare di queste cose. Roma è fatta di queste cose e c'è qualcuno che pensa all'isola pedonale, alla barcaccia di piazza di Trinità di Monti, a Piazza del Popolo, pensa che la Roma è cartolina, ma la Roma vera, quella grande vissuta, sta al di fuori delle mura aureliane, no, all'interno, e lì non si arriva neanche a svuotare i secchioni da monnezza, insomma, diciamo così. Poi entreremo in cosa, però prima di andare vorrei, in sintesi, cercheremo poi di mandarle quasi tutte, però questa qua che si attaglia proprio perché fa la sintesi delle dichiarazioni che i militanti non TAV hanno fatto davanti ai giudici che li stanno processando per terrorismo, e con orgoglio e motivandolo rivendicano la loro partecipazione. Dice: io c'ero quella sera, c'ero come c'ero tutte le altre volte. Rivendicano orgogliosamente. Io mando la dichiarazione di Sara, che fa la sintesi, è la più breve, però fa la sintesi delle altre tre dichiarazioni che, se necessario, che riteniamo opportuno, le mandiamo pure dopo. Scusate, forse si sentirà male, lo prendiamo da YouTube, lo prendiamo da sta cosa qua, forse no, però cercate di capire e vedere la dignità, l'orgoglio, no, di questi compagni convinti, militanti, che rivendicano le proprie cose. Questa cosa gliela dedichiamo a Nunzio, perché con la stessa dignità Nunzio rivendica di essere quello che è. Un granello di sabbia nell'ingranaggio di un progresso il cui unico effetto è l'incessante distruzione del pianeta in cui viviamo. C'ero quella notte ed era fede mia la voce femminile che è stata intercettata. Ho attraversato un pezzo della mia vita insieme a tutti quegli uomini e a tutte quelle donne che da più di 20 anni oppongono un no inappellabile a un'idea devastante di mondo. Ne sono fiera e felice. Libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, lib Ecco, era la dichiarazione fatta da Sara al Tribunale di Torino, che li sta processando per terrorismo, per aver partecipato, per essere attivi alla difesa della valle, e il sostegno dei compagni che erano presenti al tribunale. Questo coro finale lo dedichiamo a tutti quelli che sono sotto repressione. Si va insieme e si torna insieme, no? E chiediamo la libertà per tutti quanti. Al di là di questo, quasi sembra un po' retorico, però lo dobbiamo ricordare, che quando vengono colpiti uno di noi, hanno colpito tutti di noi. Loro pensano di con questo metodo di levare da mezzi piedi i più rappresentativi, che nell'ordinanza di nunzio lo dicono proprio apertamente, e fuori nunzio ci stanno altri 1000 nunzi pronti. Non è che saranno solamente nunzio Luca, Paolo, che impedisce di proseguire nelle lotte e nelle attività di bisogno. Io ritengo che questo è così, pertanto aspettiamo il contributo nella discussione che si svolgerà. Lascio subito la parola facendo due cose. Sono successi alcuni episodi: aggressioni al Pigneto, l'uccisione a Torpignatara, l'aggressione a Gorgolle, no? Nessuno spiega i motivi, per quale motivo avvengono certi episodi. La buttano in caciar, il problema sono gli emigrati, il problema sono i diversi. Se vai a questi quartieri, e io penso che questa testimonianza la possono portare tutti i quartieri che stanno fuori del, diciamo, della cinta ferroviaria, da fuori della cinta delle mura latine, che sono tutti i quartieri in cui vengono tagliate le linee dell'autobus, in cui la monnezza la raccolgono a babbo morto quando non hanno nient'altro da fare, ma perché prima devono svuotare i secchioni del Colosseo o magari di Piazza Navona, e poi se ci passa tempo vanno a Tor Bella Monaca, no? O gli autobus vengono tagliati, tutti quelli nuovi con l'aria condizionata, pochi, ma viaggiano al centro, uno va, un altro viene veloce, uno è così. Però se devo andare a Corcolle c'è un unico auto che collega la stazione di Rebibbia a Gorgolle, passa una volta ogni ora e spesso zompano le fermate. E io penso che ci sia, perché io posso dirlo, perché mi sono trovato testimone di aver visto. Sì, un attimo, di aver visto l'autobus lasciare a piedi una quindicina di migranti. Erano, penso che erano del CAR che sta lì, dei rifugiati politici. Infatti io gli sono corso dietro col motorino alla fermata, ho discusso con l'autista e gli ho detto: scusa, ma perché non ti sei fermato? Quelli ti hanno fatto il segno, a momenti le investivi. E quello ha detto: fatti i cazzi tua, tu non sai che cazzo combinano quando salgono su pullman. Questo è la partecipazione alla democrazia. Probabilmente se è successo l'aggressione, è successo da un'esasperazione. Che il comune, se tu ci metti 1000 persone lì in più, devi mettere auti in più. Quello è un quartiere nato abusivo, una borgata nata, era la campagna, lì si ci andava a passare il fine settimana, era questo quel territorio fino a poco tempo fa, adesso è densamente abitato, in più gli metti pure questa cosa e gli tagli l'autobus. Al posto di portare, ci hanno messo in quella zona grave un centro commerciale più grande d'Europa, c'è Roma Est, le strade sono sempre le stesse, gli autobus sono sempre gli stessi. E io penso che qua, se c'è una responsabilità, e gli abitanti di Gorgolle dovrebbero sentirci, non sa, devono piacco quei poveracci che hanno attraversato il mare perdendo la vita venendo fino a qua, cacciati via dalle loro terre, dalle nostre guerre, che gli, le guerre di rapina che noi portiamo nei loro territori, dovrebbero piare l'autobus e andare al Campidoglio e ricordare a Marino che Gorgolle è comune di Roma, che non è un problema se c'è l'isola pedonale, oppure pensa, andate in bicicletta da Gorgolle, vieni in bicicletta a Roma. Ma quanti sono gli immigrati a Gorgolle? 500-600 persone, ma no, questi sono dei, quelli che stanno nel CAR, questi che sono rifugiati politici che sono stati portati in questa struttura. Ma a Gorgolle è come Torpignatare, pieno di rumeni, pieno di cose che ci vivono, ci dormono, ci abitano, però lavorano a Roma. Devono piare l'autobus a quelle condizioni per venire a Roma a lavorare. E la cosa più grave è che a un certo orario, dopo le 9, non passa proprio più l'in notturno. Te lo scordi, se ti trovi che stacchi dalle 10 alle 11 e dal lavoro, a piedi ci deve arrivare, perché un tassista, provate a prenderlo se ci viene a Gorgolè e vi ci porta fino lassù, non neanche se lo pagate il doppio della tariffa. Questa è la realtà. Dove vai, vai, trovi questa condizione, la trovi a Centocelle, la trovi, e il gioco facile è colpa dei migranti. I migranti stanno portando ricchezza materiale e culturale. Se non andiamo, e chi ci sta portando nel degrado sono questi che ci governano. Che sta a fare sto sindaco Marino? Io non voglio dare tutte le colpe a Marino, perché è l'ultimo della serie dei Lanzachenecchi, perché i danni l'ha fatto Rutelli, invadendo di cemento con la complicità di Veltroni, si sono alternati fra di loro. I danni l'ha fatti Alemanno, che si è mangiato le ossa della città. I danni, e Marino però non è che ha invertito la rotta, la continuità, nessuna nuova invenzione. Non ha pensato di far vivere Roma dove i romani vivono, i quartieri della periferia, i quartieri della cinta fuori dalla cinta ferroviaria. Lì proprio per lui Roma è un'altra cosa. Se mettono 1.000 lire per Colosseo, significa che 0 lire, anche se la lira non c'è più, viene spesa per Gorgolle. Beh, mi sembra che questa è una discussione che... No, Ettore, la questione è questa, che chi ci ascolta sa benissimo che quello che accade nella periferia di Roma accade parimenti poi nella periferia delle grandi città italiane. Accade a Milano, accade a Genova, accade alla periferia di Napoli, di Bari, di Palermo. Cioè, quindi chi ci ascolta sa benissimo che parlare di Roma, di queste questioni che riguardano Roma, è anche un parlare emblematico circa quello che sono le periferie delle grandi città, delle metropoli, diciamo, italiane. Ma vedo che squilla il telefono, c'è una telefonata, credo. La prendiamo. Pronto? Pronto? Allora no, è stato un falso allarme, riprendo. Ma in un paese, Roberto, che la cui economia frana, il cui tessuto sociale si sfilaccia sempre più, la stessa democrazia di questo paese, lo straccio di democrazia che ancora esiste in questo paese, viene calpestato quasi fosse un peso, diciamo, da eliminare, quasi fosse un peso. Pronto? Senti, c'è una telefonata, Ettore? Quasi fosse un peso da eliminare, per cui adesso riaggaia, c'è una telefonata, la mandiamo in onda. Pronto? Pronto? Dici. Allora, guarda, io abito a San Basilio, quindi una zona ben conosciuta, eccetera, e succede questo, che praticamente quando io prendo l'autobus dal centro, tutti questi autobus dal centro arrivano a un certo punto della città, dove sto io, arrivano a Talenti, a Montesacro, dopodiché se io devo andare a San Basilio, devo andare oltre, e cominciano i problemi, perché gli autobus non ci sono, stai lì delle mezz'ore, addirittura ieri ho messo 2 ore per tornare da Piazza Barberini a casa, a San Basilio, perché il 60 ti porta a Largo Pugliese e per loro la città finisce lì. A una certa ora del giorno, la sera, alle fermate degli autobus ci sono solo stranieri. Se tu vai a Ponte Mammolo, a Rebibbia, la mattina o la sera, quelli che aspettano le linee periferiche sono al 99% stranieri. Questo avrà delle conseguenze anche sul piano sociale terribili, perché si formeranno, come hai detto tu, a Corcolle, in questi posti. Ci sono quartieri fuori della città in periferia che sono praticamente abitati da questi qui, che dove vanno ad abitare perché gli affitti sono di meno. Se noi trascuriamo questi fatti qua, si creeranno dei ghetti che poi porteranno a quelle conseguenze che già si è visto qualche cosa a Corcolle, eccetera, perché a un certo punto questa gente viene abbandonata, non viene assolutamente rispettata, e poi si creano queste cose, i ghetti, e poi diventerà come a Parigi, come a Londra, i famosi ghetti che si creano, questi contratti sociali che cadranno poi su tutta sulla nostra popolazione, tutto questo, ecco, questo volevo dire. Grazie, prego. Individuare chi sono i responsabili che provocano questa situazione. Bisogna fare nomi e cognomi. Ma il sindaco, io lunedì andrò a un'assemblea a San Basilio del municipio, quarto municipio, dove verrà l'esponente del municipio per dirgli queste cose, perché Roma non finisce. Ricordagli pure che il comune si è mobilitato subito mandando squadre di intervento per cancellare un murales che ricordava Fabrizio Cerusico. Sì. Lì hanno subito mandato le squadre per cancellare, perché avevano disegnato porci e pecore in divisa da poliziotti. Così le vediamo noi. Guarda, io invito la popolazione di San Basilio magari a ricostruire quel murale mettendo porci e pecore. Magari non ci mette la divisa e le lascia alla fantasia della gente per vedere chi sono. Guarda, per parlare di spazzatura, addirittura ci sono dei cassonetti di a San Basilio che non si possono aprire perché sono vecchi, stravecchi, sporchi, eccetera, mentre invece hanno messo i cassonetti nuovi nei quartieri bene di Roma. Siamo sempre lì. C'è questa discriminazione che porterà delle conseguenze terribili alla fine, terribili. Si creeranno veramente i ghetti nelle periferie e noi assisteremo a stelotte, a episodi di violenza, eccetera, eccetera. Ma è chiaro, perché se la gente non viene rispettata su queste cose elementari, è chiaro che si incassa, è naturale, insomma. E i responsabili sono il sindaco e quelli che organizzano in questo modo. Che dovrebbero governare. Bene, grazie. No, ma grazie, io quando parlavo dello sfilacciamento. Grazie, ciao. Ettore, quando parlavo dello sfilacciamento sociale, mi riferivo proprio a questa, a questioni concrete. Lo sfilacciamento sociale passa proprio attraverso queste cose: la mancanza dei servizi, la creazione dei ghetti, la creazione di muri culturali, di muri fisici. Un'altra telefonata. C'è un'altra telefonata. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, io volevo dire, ma se 50 anni fa si poteva fare il bagno al Tevere e oggi non più. Se 50 anni fa si poteva, non c'erano aree non balneabili e oggi ce ne stanno più di 30-40 in Italia. Cioè, pure questi sono problemi. Poi io sto organizzando un barcone per andare in Africa con 200 persone, perché pure qui italiani non è che stiamo messi tanto bene. E voglio vedere come ci accolgono, e poi voglio vedere che fanno se gli rompiamo gli autobus che loro non ci hanno. Buongiorno. Bene. Allora, scusa una cosa, Ettore, ci però, sono pure queste idee. Allora, proprio per capire bene, no? Inquadra bene la situazione, perché sappiamo le altre cose, le sappiamo, ma da sempre, nel senso che le periferie a Roma sono sempre state abbandonate da qualsiasi sindacato. Forse un unico sindaco si era un po' preoccupato di queste situazioni, che era appunto il sindaco Petroselli, ma tutti gli altri non è che abbiano fatto nulla per migliorare le periferie. Però c'è una telefonata. Pronto? Ciao, allora io voglio solo salutare ovviamente il nostro caro compagno Nunzio Terme, perché sta pagando per tutte le vicende che facciamo tutti quanti insieme, e quindi lo sa che l'abbraccio nostro è caloroso e fecondo, è pieno di impegno, viste le iniziative che si susseguono. Anche ieri durante la manifestazione ricordavamo e ovviamente ci appassionavamo a tutte queste storie, e hai fatto bene a mandare ovviamente la conclusione dell'udienza del processo ai quattro compagni Notab, a Chiara in particolare, che ha fatto la dichiarazione, perché quella dichiarazione risulterà nella storia come dire un atto indelebile, in virtù del fatto che, ma chi se ne ricorda i magistrati che hanno commesso tutte queste porcherie, tutte queste infamie, senza alcun ragionamento, senza alcuna prolusione, senza il fatto di aver riflettuto, se non applicato, come dire, rigidamente e spesso faziosamente il codice, non capendo che addirittura lì bisognava, riguardo a Nunzio e a Milizia Cristi, che combina tutti i momenti, le occasioni più opportune di gesti criminali, ovviamente oltre ad essere un'organizzazione fascista, sessista e razzista da ogni punto di vista, dovrebbe, il magistrato almeno dovrebbe mettere sotto accusa, se non in galera, i poliziotti e l'ordine pubblico che lì ci stava, ma sono pie intenzioni, sono solo come dire riflessioni a bocca aperta. Sappiamo che tra magistrati e poliziotti non si mozzicano da ogni punto di vista. Quindi a Nunzio gli va tutto veramente il nostro affetto, la capacità che abbiamo di potercelo riportare immediatamente, anche se la cosa non sarà facile, perché una volta che decretano che sta in arresto, tutto il meccanismo faraginoso della giustizia, nonostante il tribunale libertà, riesame eccetera, farà sì che lo vogliano ancora mantenere in quella situazione, così come stanno facendo per Paolo e Luca. Ormai da giugno agli arresti domiciliari non si sblocca la situazione. Il 10 ottobre ci sarà l'iniziativa ovviamente a Piazzale Clodio, verrà per tutti, ci sarà di mobilitarsi a fianco di questi compagni come lo stiamo già facendo. Infine voglio ricordare due iniziative che si svolgono tra oggi e domani. Oggi pomeriggio alla Maranella, l'hai citato fin dall'inizio, c'è la manifestazione del popolo del Pakistan, bengalese, cinese, a sostegno ovviamente dei loro diritti, dell'infamia che è stata commessa con l'assassinio del compagno, amico, fratello pakistano, che è stato ucciso proditoriamente da scherani che sono in quel quartiere, da piccoli bossetti, e non dal giovanotto che hanno messo in mezzo. È caduta la linea. Non si sente più, Vincenzo non si sente più, va bene. Va bene. Eventualmente lo raggiungiamo. Sì, stava noi ricordando quell'episodio, appunto, che è stato fatto passare come una specie di rissa, o comunque questo pakistano che, ubriaco, infastidiva i passanti, che avrebbe, secondo questa versione, sputato. E non era ubriaco. Sputato. Di questo è accertato. Sì, Ettore, lo stiamo dicendo. Ho detto la versione loro. Ovviamente noi pensiamo che le cose siano andate diversamente, no? È questo che stava dicendo Vincenzo. Quindi, nella versione che hanno dato, era appunto che questo cittadino pakistano stesse infastidendo, eccetera. Poi avrebbe addirittura sputato su questo ragazzotto di 17 anni, che avrebbe reagito secondo lui con solo cazzotto e il pakistano sarebbe morto. In realtà sembra che invece il cittadino pakistano sia stato massacrato di botte, e che quindi la versione non è assolutamente quella che è stata data. Ritornando a Carcolle, perché lasciare le cose in sospeso insomma non è che fa... Non è che fa bene. Allora io leggo, ma se sono notizie sbagliate e infondate vanno confutate. Qui in un articolo di un giornale leggo che gli ospiti immigrati erano 45, di cui 15 già trasferiti, quindi stiamo parlando di cifre molto contenute. Mentre parallelamente pare che si stia aprendo un'inchiesta sulla malavita locale. Comunque c'è una telefonata. Pronto, puoi andare in onda. Sì, ciao, buongiorno compagni. Un saluto a Nunzio. Solidarietà pure al centro sociale Cortocircuito, che Nunzio frequentava spesso e volentieri e che ha subito degli attacchi da parte dei vigili urbani e della municipalità del luogo. E insomma, vabbè, stiamo in un periodo effervescente. Niente, quello che volevo dire, compagni, è che in ogni caso, cioè, qui non facciamo sempre come i discorsi del senno del poi. Allora, ambienti ultraperiferici come anche Tor Bella Monaca, Tor Vergata, insomma, tutte le zone degli assi attrezzati, che è la zona Roma sud-est, sud, che sono quelli a più alta quantità di insomma, di immigrati e di cittadini che non sono, come dire, nativi di Roma, così, se li vogliamo chiamare così, e che sono quelli che oggi se la prendono con gli ultimi arrivati il più delle volte. Cioè, sono anche, come dire, luoghi di persistenza di subproletariato parassitario che vede nell'immigrato qualcuno che vuole sottrarre dei qualcosa che si andava avanti fino ad ora, insomma. Cioè, in pratica qui si parla di mo arrivano gli immigrati che ci occupano le case che dovevamo occupare noi. Quindi, cioè, a mio parere, anche a parere di molti compagni, pochi compagni che ormai siamo rimasti come mosche bianche nelle zone, perché ormai tutta quanta la protesta sembra che sia finita in mano a questi neofascisti. L'evoluzione sarà chiara, chiarissima. Cioè, l'evoluzione sarà che a un certo momento si arriverà al punto di rottura, e questi qui, questi cittadini, comunque essi siano, da dovunque essi vengano, magari, che ne so, la casa scatenante sarà, che ne so, l'ultimo, che ne so, pugliese che arriverà, ma per dirla così, insomma, che a un certo punto si scateneranno quello che si è scatenato nelle banlieue parigine, ma tranquillamente, senza problemi. E non possiamo stare lì a dare addosso a un nome, un cognome come Rudelli Francesco, Veltroni Walter, perché, cioè, il sindaco 4-5 anni poi ce lo togliamo dalle palle. Il problema è che i funzionari stanno lì da 30, 40, 50 anni e sono loro che hanno il potere, non il sindaco, perché anche se il sindaco va lì e vuole imporre la sua volontà, sì, vabbè, gli dicono sì, bravo, bravera, fammi causa, poi ci vediamo in tribunale, tanto io continuo a fare come cazzo mi pare sul territorio. Quindi, compagni, cioè, qui stiamo sbagliando come al solito, completamente proprio l'obiettivo. E non è che adesso arrivo io e dico ok, io ho portato la verità, cancellate tutto quello che abbiamo detto e fatto, e prendete i miei paradigmi e usate quelli. No, io dico soltanto che a un certo punto, fino ad oggi, che cos'è oggi, il 28 settembre 2014, non ne abbiamo imbroccata una che una, ma proprio una che una, cioè proprio niente. Cioè, la città ci è sfuggita di mano, i quartieri ci sono sfuggiti di mano, le mappe della criminalità delle zone di Roma vengono pubblicate una settimana sì, una settimana no. Sappiamo che a Ossa ci stanno i fasciani contro la Caruana, alla Romanina ci stanno gli zingari dei Casamonica, insomma, proprio tranquillamente esplicite che ormai le città sono in mano loro. Poi, cioè, non ne abbiamo imbroccata una. Quindi, a un certo punto, basta con le solite stronzate, e se ci riusciamo cambiamo un attimino, perché altrimenti non se ne esce. Ciao. Allora, abbiamo ripristinato la telefonata con Vincenzo. Sì, allora pronto, Vincenzo. Ciao, no, volevo essere sbrigativo, insomma, perché già avete parlato ovviamente della Maranella di oggi, quindi alle 18 a Piazza della Maranella c'è questa manifestazione a sostegno del diritto alla verità per risarcimento morale e patrimoniale ovviamente a quello che è stato ammazzato. I parenti sono presenti qui in Italia, a tutta la comunità pakistana e a tutti coloro i quali, di cui state parlando anche riguardo a Corcolle e quant'altro. Voglio dire che domani, lunedì, dalle 10 alle 14 a Piazza Santi Apostoli ci sarà la comunità curda che vuole intervenire presso l'ONU. L'ONU non sta in piazzetta San Marco, ma ormai la questura da 2 anni a questa parte vieta le iniziative sotto e davanti Piazzetta San Marco perché è limitrofo al ghetto. Queste sono le scuse da questo punto di vista. E allora la comunità curda si dà appuntamento lì per poi preparare una delegazione che va a in Palestina, mettono i muri lì, ci mettono i divieti in Palestina per non disturbarli, costruiscono i muri, qui ci mettono i divieti. Sì, perché ovviamente la delegazione curda che invita ovviamente le realtà italiane, stiamoci per chi ha la disponibilità della mattina, diamogli questo forte impegno e contributo, perché lo sapete, ormai ce la stanno spiattellando tutti i giorni, i curdi sono sotto schiaffo, coloro i quali difendono solo la popolazione curda, cristiana, aluita, yazida e quant'altro, insomma sono gli unici rimasti a difendere sul campo coloro i quali vengono assassinati dai tagliagole che sono stati finanziati fino a qualche momento fa dagli Stati Uniti e dalla Turchia, e sono sotto assedio proprio dall'ISIS, stanno soffrendo da tutte le parti, ne hanno morti tutti i giorni, sono attaccati su tre lati, l'ultimo lato che è rimasto è quello della Turchia, pensate quanto è insicuro pure quello, eppure stanno chiedendo ovviamente a tutte le loro comunità, quelle provenienti dalla Turchia, quelle provenienti dall'Iraq, di dare manforte. Purtroppo le armi sono sproporzionate, quelli di tagliagole, l'ISIS c'ha i carri armati, c'ha le Katyusha, c'ha i missili eccetera, questi combattono con i Kalashnikov, con qualche mitragliatrice, con qualche mortaio, quindi ogni giorno un sacrificio enorme, fino a questo momento sono morti oltre 2000 curdi da questo punto di vista. Allora cerchiamo di essere presenti, di capire le cose come stanno. Domani, lunedì, dalle 10 alle 14 a Piazza Santi Apostoli. Arrivederci e grazie. Ciao, grazie a te. Allora, e poi entriamo anche nel discorso curdi, perché è molto interessante questa storia, bisogna anche cercare di dare una schiarita. Volevo finire il discorso su Karkol. Allora, qui si parla di 45 ospiti, di cui 15 già trasferiti. In questo quartiere, a fronte di questi numeri, raccolgono 950 firme per mandarli via, in un quartiere che ha il più alto tasso di persone agli arresti domiciliari, quindi sono circa 700 persone che stanno agli arresti domiciliari, che sono preoccupati delle eventuali malefatte che possono fare nel quartiere questi 30 o 40 immigrati. Qui c'è qualcosa che non mi torna. C'è una telefonata. Pronto? Sì, pronto. Sei in onda. Salve a tutti e a tutte quelli che ci stanno ascoltando. Io intanto chiamavo soprattutto perché se Nunzio ci sta ascoltando, se gli altri compagni che stanno ai domiciliari ci stanno ascoltando, beh, sappiate che vi salutiamo con una forza gigantesca. Siamo con voi, Nunzio, tieni duro perché i compagni e le compagne stanno facendo un grande lavoro. Per tornare a noi, io volevo dire un paio di cose su quello che ho sentito, soprattutto degli interventi dal telefono, da casa. Io non me la prendo, cioè le cose che ha detto quel compagno che parlava delle periferie le ho condivise fino al punto in cui diceva che il problema sono i funzionari che stanno lì per 30 anni, per 40 anni. Regà, i funzionari ci mettono i politici, quelli che dirigono veramente, non i responsabili del piccolo settore, quelli che dirigono veramente al comune piuttosto che dentro i ministeri, sono cariche politiche e ci mettono i politici. Quindi il discorso che invece sentivo di fare da Ettore eccetera rispetto alla questione dei tagli alle linee della periferia, delle periferie abbandonate a se stesse, e poi dobbiamo parlare di che periferie, perché pure su questo dovremmo averci un attimo attenzione. Io vivo in periferia, sto a 300 metri da raccordo anulare, eppure non è più periferia questa. Qui a Cinecittà, 30 anni fa, 25 anni fa, quando sono venuto ad abitarci, era estrema periferia. Adesso ce n'è un'altra di città, questa qualcuno la chiama la città consolidata. Noi non viviamo i benefici, tra virgolette, del centro, ma avendoci la fortuna di avere la metropolitana, qualche linea di autobus che qui funziona, pur stando attaccati a raccordo anulare, non siamo più periferia, qui viviamo in un'altra situazione. quelli che stanno oltre il raccordo anulare, quelli che stanno sotto alle falde dei castelli, quelli che stanno nelle zone dei colcolle eccetera, lì sì che è pesante la situazione, perché sono dimenticati da tutti, questa è la verità. Condivido chi diceva che in quelle realtà non ci siamo e abbiamo abbandonato quel lavoro, perché è la verità, perché la generazione del nostra, dei più vecchi, è quella che subito dopo è arrivata, si è concentrata dove poteva in quegli anni, perché lì si poteva, in quelle che all'epoca erano le periferie e che oggi non lo sono più. C'è un anello importantissimo con centinaia di migliaia, milioni di persone che, dove non c'è il nostro intervento. L'unico intervento che c'è è quello della spozia dell'autista dell'ADAC che non si ferma, perché è vero quello che dicevi, non è che è proprio così, non si fermano. E io inviterei chiunque a pensare a cosa faresti col gruppetto d'amici tua al quarto autobus che non si ferma, se pure a te non ti viene da tirare una terciata per farlo fermare. Poi sappiamo uno che è un lavoratore che sta in cazzi sua, però magari è un lavoratore pure razzista, perché è pure così, non è che tutti i lavoratori poi sono bravi solo perché lavorano, perché sono impregnati dalla cultura che ci propinano i mezzi di comunicazione mainstream e quant'altro. Quello che dobbiamo avere chiaro è che c'è il centro del problema, a mio modesto parere, è legato all'impoverimento feroce che stiamo subendo in questi anni. Cioè le cose sono cambiate in maniera accelerata, geometrica, con questa crisi. Noi l'abbiamo sempre detto, i compagni hanno sempre denunciato le storture di questa società, di questo paese, che si sfrutta fino all'ultimo, no? Di questa società basata sull'accumulo che ti sfrutta fino all'ultimo, devi essere veramente soltanto lavora, consuma, crepa. Ma la crisi questa roba qua l'ha fatta saltare, perché in realtà adesso non puoi manco più lavorare, puoi manco più consumare, mo puoi solo crepare. E nelle periferie estreme questa roba è diventata la grandissima contraddizione, e in parte c'ha ragione quello che diceva che ci sono delle piccole criminalità, ci sono delle piccole bande che si sono spartite sta città, c'è pure la fascio mafia che si è spartita sta città, perché guardate che amici di Mokbel stanno a Cassim così con l'andrangheta, e guardate quanti milioni e milioni di euro hanno investito nell'apertura dei locali e di attività, loro sì pure al centro. Quindi è complessa la situazione di Roma, perché non ci stanno soltanto i Casa Monica come venivano nominati prima, qui c'è sta un altro proprio tipo di potere occulto che ha commissioni col potere ufficiale. Noi contro questa roba dobbiamo lottare, però per lottare contro questa roba dobbiamo starci in quei luoghi. Se non ci stiamo è un problema, perché non ci capiscono, non ci vedono, non ci conoscono. Allora sicuramente l'invito ad andare a Torpignattara oggi è fondamentale, bisogna andarci, noi del cortocircuito saremo lì presenti, ci facciamo vedere, stiamo a fianco dei compagni che hanno fatto un lavoro importante. Io sentivo l'altro giorno un intervento di un compagno della SNIA che ha spiegato come stanno lavorando su quell'area, e credo che sia quello un esempio da seguire. Martedì andiamo a Corcolle, martedì alle 5 del pomeriggio andiamo a Corcolle, facciamoci vedere, sentire, ci sarà un'assemblea anche con gli autisti dell'ADAC, quella parte buona, quella parte che ha un minimo di coscienza di classe, che sente la vicinanza con la gente delle periferie e quindi anche con gli immigrati che ci vivono nelle periferie, che verrà a dire come stanno le cose rispetto ai tagli che ha fatto questa giunta, complice di chi fa i pogrom, lo ripeto l'altro giorno sotto a Regina Celi, ma io lo ripeto oggi, Marino è complice di chi ha assaltato il CARA di Corcolle, perché quando ha detto lo chiudo, gli ha detto ragazzi così si fa, perché questo è un poveraccio che non sa dove sta, il governo della città, come si fa il governo della città? Se tu dai ragione a chi ha assalito il CARA di Gorcol chiudendolo, fra qualche giorno faranno la stessa cosa pure dove vanno a mettere a Sette Camini. Gli ha dato la stura a questa roba, complice di questa gente, lui e chi gli ha fatto la campagna elettorale. Bene, un saluto a tutti, ciao, grazie. Allora, sta storia di Gorcol, tanto per capire, io, allora, chi ha notizie, diciamo, dirette? Perché io ho parlato di 500 perché, ecco, così avevo letto nei giornali. Ho capito, adesso io leggo altro, leggo che c'erano 45 ospiti, di cui 15 già trasferiti. Adesso hanno mandato la security privata per proteggere il centro da eventuali assalti razzisti. Ora, quello che ha detto il compagno è sacrosanto, però io vorrei capire meglio quali sono le cifre di tutta questa storia, perché credo che ci sia un disegno un pochino più preordinato. Benissimo, Roberto, tu dietelo da parte, però ci abbiamo le telefonate che incalzano. Abbiamo detto di questa cosa oggi, sentiamo questa telefonata. Pronto? Ciao a tutti e a tutti. Io non ho la risposta ai dati che chiedevate, però voglio innanzitutto fare un grosso saluto e un grande abbraccio a Annunzio, come anche a Paolo, a Luca e a tutti i compagni e compagni che si trovano in carcere, a Marco, perché grazie a Nunzio Terme io 3 anni fa, cioè non grazie a Nunzio Terme ma grazie alle battaglie, alla lotta per la casa condotta insieme a Nunzio Terme, 3 anni fa, a 11 anni di distanza dal mio sfratto per finita locazione, ho avuto in assegnazione una casa popolare. Oggi ho una casa popolare, però continuo a stare nelle piazze e nelle lotte, perché non è stato soltanto è stato anche un percorso di crescita personale, diciamo, che ho raggiunto, e non soltanto l'assegnazione della casa popolare. E poi volevo raccontare che esattamente 22 anni fa, io ho 42 anni, la mia prima casa in affitto fu proprio a Gorcolle, che per l'esattezza si chiama Giardini di Gorcolle e si trova a circa 25 chilometri da Roma. 22 anni fa non c'erano immigrati a Giardini di Gorcolle, io lo so bene, perché per arrivare alle 7 di mattina a Piazza Bologna dovevo prendere l'autobus alle 5 di mattina e quindi passavo tanto tempo sopra gli autobus. Non c'erano gli immigrati, ma a distanza, insomma, di 22 anni io sento che i problemi di allora sono più o meno gli stessi di adesso. Allora passava un solo autobus, le corse erano una ogni 40 minuti, spesso l'autobus saltava le corse e quindi tu rimanevi 1 ora e 10 minuti, a volte anche di più, in mezzo al traffico ad aspettare alla pensilina dell'autobus. Ma questo non solo, anche per come è la Prenestina, diciamo, fino ad arrivare alla Togliatti, da Gorcolle fino ad arrivare alla Togliatti, così per come è fatta, una sola corsia per senso di marcia, si creava un traffico tale che spesso era preferibile scendere dall'autobus in prossimità del raccordo e procedere a piedi, perché si faceva comunque prima ad arrivare a piedi che con l'autobus. Negli orari di punta, quando io tornavo verso l'ora di pranzo a casa, spesso ero costretta ad aspettare più autobus, appunto perché erano talmente stracolmi che questi non si fermavano alle fermate. Quindi voglio dire, addurre adesso all'immigrato il problema mi sembra una cosa molto ben studiata ed escogitata. A parte il numero degli immigrati presenti nel CARA, che sembra così esiguo, probabilmente il fatto è che quel paesino nacque abusivo, sono tutte villette. Io per esempio abitavo e pagavo l'affitto in nero in un appartamentino che era una porzione dell'appartamento del proprietario di casa, tra parentesi un furfante. Io l'unico pericolo che ho incontrato a Gorcolle era proprio il padrone di casa e il genero, italianissimi, che mi molestavano, tanto che io me ne andai, più che per il disagio degli autobus, perché questi due erano proprio due mezzi maniaci. Il fatto che adesso sia abbassata una scintilla, ovvero l'assalto all'autobus da parte degli immigrati che magari aspettavano da ore, sembra veramente una cosa molto ben escogitata. Un piccolo aneddoto voglio raccontare. Quando pioveva, io rimasi allucinato, io stavo a 50 metri dal capolinea dell'autobus, al primo temporale mi affacciai alla finestra e vidi un fiume e la gente che procedeva con le galosce da pescatori. Chiaramente mi interrogai, dissi: ma al Corcolle un paese di pescatori mi sembra strano, insomma, forse qua succede spesso la cosa. Ed era così. Ora, a me faceva spavento, perché poi ho abitato lì per un anno e mezzo, la rassegnazione con cui ogni volta che pioveva e si allagava Corcolle e basta, sta marea di gente con le galosce ai piedi arrivava fin dove sulla Prenestina l'autobus era potuto arrivare. Ecco, la rassegnazione delle persone mi faceva paura. Il fatto che poi succeda un qualcosa di eclatante, cioè una scintilla, ecco, che fa trovare il capro espiatorio, per cui tutta la gente si mobilita per sfogare quella rabbia che cova, io lo so da 22 anni, ma magari quelli lì ci abitano da 40 di anni, è un fatto che ci dovrebbe far riflettere. Forse dovremmo essere noi che nei territori individuiamo le criticità, individuiamo le problematiche e quella scintilla la facciamo scoccare, ma nella giusta direzione, perché la responsabilità è sicuramente del servizio dell'ATAC, che è pessimo, è di chi quindi amministra questa città, è di chi non cura i sistemi fognari, è di chi non cura i servizi. E questo non succede soltanto nell'estrema periferia, perché io al rientro da un'assemblea l'altra sera mi sono dovuta fare la corsa da Porta Maggiore fino alla metro di Manzoni per riuscire a prendere l'ultima metropolitana. Perché? Perché il servizio del 3 si interrompe prima che cessi l'ultimo passaggio della metropolitana. Quindi con €1,50 io mi sono fatta 3 fermate con l'autobus, con il tram che mi ha portato fino a Porta Maggiore, mi sono dovuta fare la corsa a piedi fino a Manzoni e poi ho potuto fare altre 7 fermate di metropolitana. Tutto questo €1,50 mi è costato. Cominciamo a far dire alla gente queste cose, cominciamo a ricordare alla gente che la casa non è una merce, la casa è un diritto che ci spetta per il semplice fatto che siamo su questo mondo, perché non esiste mammifero al mondo che non necessiti di un rifugio. E quindi basta di pensare che la casa possa costare 30 anni di mutuo. Noi dobbiamo riuscire a far dire alla gente che 30 anni di mutuo è una galera e non si può pagare per un bene che ci deve spettare di diritto. E questo è tutto, grazie. Ciao. Senti, allora. Ettore, no, una cosa rapida. Io intanto la telefonata che ha preceduto questa, quella del compagno, secondo me ha fatto bene a porre un punto, a non dividere il grano dall'olio, perché qui il grano non c'è, qui non è che si possono dividere i politici dai burocrati. Questo è un intreccio che cammina, che viaggia all'unisono. Ma questo non da adesso, non dai tempi, diciamo, di questo sindaco. Questo so 30 anni che la burocrazia comunale, ma questo non vale nemmeno, Roberto, solo per Roma, vale per tante altre città di questo paese. Questo intreccio mefitico tra burocrazia e politica e politici è un intreccio che è storico. È storico. Quindi attenzione qui a non dividere, anche se involontariamente, i buoni dai cattivi. Qui quello che va analizzato è quello che accade, diciamo, in questa città, quello che non si fa, e quello che non si fa in questa città, Robè, è questione storica. Sì, siamo d'accordo, però volevo chiudere in parte il suo discorso. Allora, io so una cosa, che sono rimasti 30 ospiti nel centro di Carcolle che sono protetti da security e polizia, perché assediati, no? Da gente che evidentemente ha cattive intenzioni. È stata attaccata una navetta nel quartiere che trasportava, dove dentro c'erano cittadini nordafricani. Poi un'altra cosa che voglio capire: ma se ci fosse stata la protesta di questi immigrati perché gli autobus non passano o non si fermano, la popolazione avrebbe dovuto semmai solidarizzare con loro e non andare alla caccia all'immigrato. C'è una telefonata? Sì, però purtroppo quando lavori dentro al ventre, ragioni di panza, è più facile piassare la colpa, il debole. Ma non è così, Ettore, non è così, qui ci sono altre storie, cerchiamo di capirle. No? Pronto? Pronto, buongiorno a tutti e buongiorno pure Annunzio, anche se buongiorno in galera è difficile, diciamo così, no? Però insomma io sto andando al lavoro, un'altra galera, quindi le galere insomma stanno dappertutto. Con Nunzio, lui lo sa, non sempre ci siamo trovati d'accordo, cioè sarebbe anche in questo momento ipocrita, diciamo, non dirlo, no? Con i suoi raggruppamenti politici, con quello che ha detto in passato, quello che dice oggi, per fortuna collaborando, diciamo, anche a questa trasmissione così importante per Radio Onda Rossa. Questo non mi impedisce naturalmente di salutarlo, insomma, con forza, e da curarne la più rapida rimessa in libertà, tra virgolette, insomma. E sono le questioni di cui stavate dicendo rapidamente. Io dico questo, insomma, francamente a me questa storia dei servizi e della lotta per i servizi non mi ha mai convinto. Faccio un esempio pratico. 50 anni fa c'era un partitone che andava per la maggiore in Italia, il cosiddetto Partito dei Lavoratori, si chiamava Partito Comunista Italiano, pure allora voleva fare le riforme di struttura, vi ricordate? Lotta dura per le riforme di struttura, quanti cortei abbiamo visto e abbiamo contestato pure allora, insomma eravamo ragazzi, contestavamo pure allora questo tipo di atteggiamento, perché noi pensavamo altro, infatti, tant'è vero. Oppure questo partitone che diceva appunto vogliamo i servizi sociali per tutti, voleva mettere l'albero, la fontanella nei quartieri, il marciapiede, il bus, l'asfalto, qualche casa in più, insomma voleva una società di questo tipo, che già allora era capitalistica, insomma un pochettino più vivibile, diciamo così. Volevamo una città a misura d'uomo, abituato sto partitone al socialismo a misura d'uomo, quella catastrofe, insomma, contro il proletariato dell'est che lui aveva appoggiato, insomma, in Russia, la voleva trasportare in Italia facendo le città a misura d'uomo. Poi abbiamo visto, insomma, in tutti questi anni, in questi decenni, che le riforme l'hanno fatti i padroni, ancora oggi parlano di riforma del sistema del lavoro, no? Tutte queste cose che qua, i palazzi l'hanno fatti i palazzinari, le città sono diventate metropoli, direi metropoli capitalistiche, e i servizi sono diventati servizi, non per tutti, sono diventati servizi, gli unici servizi che potevano diventare, sono diventati servizi di classe. Cioè per i borghesi ci sono i servizi e per l'altro i servizi non ci stanno. Allora noi dopo un po' dei decenni, diciamo tra virgolette, scopriamo questa novità, questa anomalia, e che facciamo? Vogliamo riproporre che ci serve un autobus in più? Ma l'autobus in più, ammesso che ci sia, è benvenuto che ci sia, che rispetti le fermate per tutti, che si fermi pure dove ci stanno i lavoratori neri o quelli che non lavorano neri perché sono detenuti dentro i centri per i rifugiati politici, si fermano, tutto bello e tutto, ma sto lavoro ci conduce, ma sto bus in più ci conduce sempre al lavoro, che in questa società è sfruttamento. Oppure vogliamo stare dentro una casetta un po' più grande, no? Però dentro sta casetta ci abbiamo sempre i condomini, ci abbiamo sempre quelle stanze lì, ci abbiamo sempre che non parliamo con nessuno, ci abbiamo sempre che non siamo liberi nemmeno là, perché viviamo dentro una metropoli imperialista, viviamo dentro una metropoli che non può essere altro che così, perché così è in tutto il mondo, compagni e compagne. Allora forse bisognerà cominciare anche lì a alzare un pochettino lo sguardo e a darci un programmino un tantino più ambizioso rispetto a quello, pur ovviamente su cui impostarci lotte e mobilitazioni, che è quello di mettere l'albero, la fontana e un bus in più. Vi saluto, forza Nunzio, ciao, grazie. Ciao. Allora, Roberto, puoi riprendere, poi sì, no, io dovremmo avere allora un altro contatto che provochiamo, sì, noi, e un giornalista, certo, se non risponde, mo ci riprovo, che fa servizi sulla città di, sì, questo tipo, lavora in una televisione locale in cui queste cose le segue, sentiamo anche la sua. Va bene, io adesso mi limito soltanto a ragionare, perché evidentemente una cosa è dire che in quel quartiere c'era una concentrazione di 700-800 immigrati, e una cosa è venire a sapere che si trattava di 45, c'è qualcosa che non mi torna. Cioè un quartiere può essere preoccupato a tal punto da fare raid razzisti contro 45 persone, tra l'altro adesso ne sono rimaste 30, cioè c'è qualcosa che non mi torna. Qualche idea mi viene in mente, però lasciamo perdere, aspettiamo di avere una maggiore documentazione sulla questione, anche perché poi secondo me questo fa il paio con Torpignattara, no? Ci sono evidentemente delle strane coincidenze, perlomeno temporali, su come esplodono determinate questioni e chi c'è dietro. Comunque, tornando a torniamo, ci abbiamo finalmente il contatto di questo, lavora, insomma, poi gli serve la libertà. Ciao Luca, senti, dato che il tuo lavoro ti porta a girare per Roma, a registrare, a visionare questa città in lungo e in largo, quei disagi soprattutto nella periferia, quale impressione c'hai? Cosa ne pensi di questi episodi che si stanno scatenando uno a Persanato, dal Pigneta a Tor Pignatara, a Tor Bella Monaca, alla Borghesiana, a San Lorenzo, e chi? C'è un po' dappertutto un degrado della città, non della sola società, in cui c'è le strade e le strade non asfaltate, tutte piene di buche, pericolose a camminare, a monnezza che non viene ritirata, insomma un panorama devastante di questa città. Tu come la vedi e che impressione te c'hai contattando pure la gente? Ma guarda, il quadro l'avete dipinto voi, io non ho avuto modo, perché avevo un impegno di lavoro, di seguirvi costantemente, un po' vi ho sentito e avete dipinto il quadro credo in modo molto esauriente. Io devo dirvi che in effetti la giro sostanzialmente tutti i giorni dal 2000 e ho l'impressione in questi ormai purtroppo quasi 15 anni che la situazione abbia imboccato una strada senza ritorno, nel senso che è una degenerazione costante che si è costruita e che ha basi lontane nel tempo e che affondano le loro radici nella gestione Veltroni, quando io credo di aver iniziato a seguire la politica romana per lavoro nel 2000, appunto poco prima della campagna elettorale che poi portò Walter Veltroni a diventare sindaco di Roma. In quel periodo storico sembrava di vivere una città che stava vivendo una fase di rilancio dopo i 2 anni e mezzo, i 3 anni difficili della seconda giunta Rutelli. In realtà si stavano mettendo le basi, anche dal punto di vista dell'errore, dello sbaglio concettuale su come gestire le risorse comunali, per avviare un degrado che è quello che ci troviamo oggi di fronte. E devo dirvi che in quella fase storica in pochi si rendevano conto, ad esempio, che il Comune di Roma, e noi all'epoca già lo facevamo presente a Veltroni, stava via via allontanando i suoi residenti storici dalle case del centro, case del Comune di Roma, nell'indifferenza generale, solo per fare un esempio. Quella era l'altra faccia, quella meno sponsorizzata, quella meno pubblicizzata della Roma delle notti bianche, della Roma che sembrava vivere una fase di ricollocamento nel panorama delle grandi capitali europee. E di lì in poi invece quella giunta, attraverso tutta una serie di meccanismi, ha sperperato in lungo e in largo risorse che andavano distribuite diversamente, con le conseguenze che sappiamo, soprattutto dal punto di vista della tenuta dei posti di lavoro per quanto riguarda il Comune di Roma, per non parlare ovviamente di quanto aveva fatto prima la giunta Rutelli. Successivamente c'è stata l'esperienza di Alemanno, che aveva come principale obiettivo quello di ricompensare tutti coloro che non avevano mai avuto un posto di potere all'interno della città, e dunque è stata più che altro una spartizione mal riuscita, con effetti disastrosi sulla città. E questa giunta sta, come dire, provando a operare con un'incapacità di fondo che mi sembra sia emersa nel tempo, dunque non riuscirà a invertire una tendenza che purtroppo ci ha portato a vivere la situazione che avete descritto. Devo dire, ad esempio, una cosa che in questi giorni non ha avuto grande risalto, ma di cui si parla molto poco, è quella dei Rom. I Rom so che sono un argomento molto spinoso. Io appunto per 15 anni ho avuto l'opportunità di entrare in tutti i campi regolari e meno tollerati, come si dice adesso, o meno, della città, di girare un po' dappertutto, e mi sono sempre reso conto che da quel punto di vista non c'è mai stato nessun tentativo di costruire un percorso di confronto da parte delle amministrazioni. Il succo del discorso è stato intrapreso poi dalla giunta Alemanno, che a un certo punto ha pensato bene di prenderli e di decollocarli il più lontano possibile dalla vita all'interno della città, spesso senza servizi, come è accaduto sulla Pontina, addirittura senza l'acqua, senza l'energia elettrica. E quello, devo dire, ad esempio, in questi giorni in cui si parla molto di Porcolle, si parla molto dei centri d'accoglienza, si fa riferimento, scrivendo spesso male, devo dire, sui giornali del mainstream, di questo razzismo più o meno latente all'interno della città, che tutti si sono dimenticati che ci sono migliaia di persone che vivono in condizioni disastrose, spesso con realtà che ne hanno curato la scolarizzazione senza avere altro interesse se non quello di far cassa. E quella, ad esempio, è forse la foto più emblematica di questi 15 anni a Roma. Sull'immondizia dovremmo in qualche modo chiederci per quale motivo nella nostra città ci siano 4-5 diverse modalità di raccolta differenziata. Anche questa è una riflessione che andrebbe condotta, perché se leviamo l'esperimento riuscito di Colli Aniene, non so se ne avete parlato, ma lì la differenziata funziona perché è un porta a porta vero, però basta girare dall'altro lato della Togliatti e quindi andare dall'altra parte di Colli Aniene e davvero parliamo di qualche centinaio di metri. Luca, a Monte Sacro facevano come con l'Agnieni, l'hanno fatto per un paio d'anni e funzionava perfettamente, adesso hanno riportato i cassonetti un'altra volta. Sì, con un atteggiamento. Un monnezzaio pubblico. Sì, è tutto disorganico e da quel punto di vista si riflette, ripeto, anche un'incapacità da parte dell'amministrazione di intraprendere una strada che è quella corretta. Poi gli argomenti sono tanti, quello delle buche a cui facevate riferimento naturalmente oggi in qualche modo diventa anche difficilmente risolvibile perché non ci sono più risorse, allora toccherebbe chiedere a chi ha governato negli anni precedenti come sono state investite queste risorse, come si fa per sbloccarle alcune di queste risorse. È un quadro desolante, ma ripeto, io sono convinto, Ettore, Serafino, saluto ovviamente tutti coloro che sono lì in studio, che oggi noi paghiamo problemi, gli errori e devo dire anche non solo le valutazioni sbagliate, ma anche la capacità di alcuni di intraprendere una strada politica solo per guadagnare posizioni e non per operare al bene della città, di chi ha governato negli ultimi 15 anni. Focalizzare l'attenzione solo su quanto hanno fatto Alemanno prima e Marino oggi, con tutto il loro percorso politico ovviamente accanto, sarebbe sbagliato. Va bene Luca, ne ti ringraziamo di questa panoramica, così io avevo accennato pure che non è secondaria al degrado di questa città delle strade dissestate, pericolose, che provocano pure incidenti, pure mortali, e poi questo parla di vivibilità, di isole pedonali, di andare in bicicletta quando la strada è pericolosa, persino camminare a piedi che rischi di scrociate camminando. Sì, ma le cause su questo c'era una contraddizione. Le cause sono sempre le stesse, le conosciamo bene noi e le conoscono molto, molto meglio di noi loro, intendo dire chi ha governato e chi governa. È la corruzione, cioè i soldi che vengono impegnati per fare determinate cose, almeno il 60% sono state mangiate, prendono altre strade, rimanendo in tema di strade, e allora è ovvio che poi le cose non funzionano. Vogliamo parlare dei Cerroni e della discarica che è andata avanti fino all'altro ieri, poi, ma di che cazzo stiamo a parlare? Vogliamo parlare dei biglietti che venivano stampati, dei biglietti falsi. I biglietti farsi dell'Ataca. Già dai tempi dei Rutelli? Parentopoli, Vallettopoli, quello che hanno potuto fare l'Ataca non si può raccontare. Dopodiché diciamo, Marino che fa? Allora, Marino, io penso che chiunque ci metti lì al posto di Marino non fa un benamato, mazza. Perché? Perché glielo impedirebbero, perché chi... No. Io dico, qualora anche ci fosse una persona non comunista, una brava persona, uno onesto, non andrebbe da nessuna parte, perché chi c'ha in mano sta greppia da anni, da decenni, quelli che poi hanno causato tutto sto disastro, pensi te che ti dicono prego, ci levi tutto? Non è così. Allora bisogna andare a capire bene quali sono le cause, le radici di tutta sta roba qua, di cui grossa parte sta nel malaffare, nella spartizione che c'è stata della città da parte dei partiti politici, con la complicità ovviamente CGL, CISL, UIL, eccetera eccetera, perché dentro queste aziende non è possibile che le cose debbano andare sempre in rosso, debbano andare sempre male. Ci sarà un motivo per cui questo avviene, oppure dobbiamo sostenere il principio che il pubblico non va bene e quindi bisogna dare tutto in mano ai privati? Io penso assolutamente di no, bisogna che le cose siano pubbliche, gestite in mano pubblica, ma soprattutto che siano controllate e gestite gestite da lavoratori, non sindacati, lavoratori e cittadini, che dovrebbero avere la possibilità di poter controllare e vigilare quello che si fa. E se non si riesce a fare questo, quindi a riappropriarci, questa sì che è riappropriazione, ci esproprieranno tutto, perché adesso già ci espropriano dilapidando le risorse che provengono dalle nostre tasse, le tasse dei pensionati, non è che vengono dalla Banca Centrale Europea, cioè il comune mette le tasse, noi paghiamo le tasse e dopo sti soldi che fine fanno? Dovrebbero andare in servizi per i cittadini, ma se se li mangiano loro è ovvio che per i cittadini rimane ben poco. Tornando al centro, è vero, tutti si preoccupano, adesso ti do subito la parola, tutti si preoccupano molto del centro, ma non è solo perché ci abitano i ricchi, perché il centro produce ricchezza, perché quando arrivano le masse, i milioni di turisti a Roma, non è che vanno a Carcolla a visitare Carcolla o Torpignattara, vanno sono dei scavi archeologici interessanti pure. Sì, non te dico, guarda, allora è ovvio che il centro, oltre che essere la residenza dei ricchi, è anche però una miniera d'oro se viene gestita in una certa maniera. E allora, se tu hai la barcaccia, che è un monumento eccezionale, e la mandi in degrado, non è che fai una grande cosa. Il problema è che però tu non puoi dire: io salvaguardo il centro perché ci abitano i ricchi, perché mi produce ricchezza, e dopodiché faccio morire tutto quello che c'è intorno. È ovvio che questo va contrastato al massimo. C'è una telefonata. Un attimo, mo la prendo. Però era questo, non c'è contraddizione, noi lo sappiamo come vanno le cose, ma quello che stiamo facendo è di far capire a quelli che ascoltano la radio e magari pensano che la colpa del loro disagio sono i migranti, i diversi, i lavoratori o via dicendo. Noi sappiamo dove stanno le responsabilità. E Luca, c'hai da dire qualcosa? Guarda, prima di salutarvi, la riflessione sulla corruzione ovviamente è ampiamente condivisibile, soprattutto in una città come Roma. Di vicende del genere ce ne sono state tante, ce n'è una di cui non si è mai parlato abbastanza e che invece vedrete che porterà alla luce diversi aspetti di grande interesse, e mi verrebbe da dire di grave interesse, considerando quello che è accaduto sui bandi per i punti verde qualità. Quando all'interno delle ville romane, e parlo di Villa Panfili, di Villa Borghese, di Villa Ada, insomma di mete predilette da buona parte della cittadinanza sparse sul territorio, a un certo punto si è deciso di andare al meccanismo di assegnazione di punti di ristoro, così venivano chiamati nel bando, anche in quel caso con modalità poco chiare. E quella è una vicenda dove ovviamente se andassimo a vedere insieme chi sono tanti di coloro che si sono visti assegnare la possibilità di lavorare lì dentro, purtroppo ci renderemo conto che questi meccanismi non sono stati mai superati nel corso della storia recente della città. E io voglio fare solo un'aggiunta sul Pigneto, perché è una situazione che ovviamente voi conoscete bene, la conosco bene anche io, e che per me rimane la cartina al tornasole del degrado in cui è affondata la città. Perché a prescindere dal fatto che si è creata anche lì questa confusione che porta spesso a una conflittualità non più latente ma evidente tra residenti storici e migranti che si trovano a passare ore e ore a spacciare droga lì sotto, creando un certo tipo di clima e portando avanti naturalmente una tensione che non si ormai misura più. Però è altrettanto scontato che anche lì c'è da chiedersi come è stato possibile che si sia arrivato a questo, come è stato possibile che l'isola pedonale di Via del Pigneto, che un tempo doveva rappresentare il primo punto d'aggregazione nelle periferie romane, quasi una sorta di modello da seguire, proprio perché si è sempre detto che nelle periferie non c'erano le piazze, non c'erano punti d'aggregazione, punti di incontro tra la cittadinanza, ebbene come è stato possibile che siano diventate preda della criminalità organizzata? Io mi sono trovato qualche mese fa, era novembre-dicembre, a documentare quella situazione, l'ho fatto non senza contraddizioni, perché poi naturalmente ti trovi ad agire in condizioni anche difficili. Alla seconda sera in cui mi trovavo lì con l'operatore di ripresa sono stato avvicinato da due persone che mi avevano osservato, italiani naturalmente, che si confondevano con quelli che stavano a bere una birra piuttosto che a mangiarsi un panino lungo via del Pigneto, che con lo smartphone mi hanno ripreso in faccia, mi hanno chiesto chi ero, perché stavo lì con l'accento del sud, e che chiaramente cercavano di intimidirmi e di dire di lasciare stare. Questo perché ovviamente poi subentra anche un controllo del territorio che pone una questione, cioè come è stato possibile che questo sia penetrato all'interno di un quartiere del genere nell'indifferenza delle istituzioni? Adesso Marino, Nieri e via discorrendo di tanto in tanto vanno lì, cercano di calmare le acque, di capire come si possa intervenire, ma ripeto, la domanda va fatta a monte, altrimenti rischiamo di, e su quello pure concordo con l'intervento di prima, pensare che le responsabilità siano di Ignazio Marino, ma ci troviamo di fronte a una situazione che affonda le sue radici in almeno 20-25 anni di malgoverno della città. Bene, grazie Luca, ti ringraziamo. Grazie a voi. Qualche altra volta ti utilizzeremo. Allora, una cosa sola. Ma io ho cominciato dicendo che c'è l'invasione di Lanzagretti da più di 20 anni. Una cosa sola, Ettore. Allora, la non è solo Marino. La mappatura di questa città, io dico, ogni tanto magari leggete qualche stronzata in meno, leggete alla cronaca di Roma, no? C'è stato uno stillicidio di omicidi, tutti nell'ambito ovviamente di situazioni molto poco chiare, criminali, da cui emerge che Ostia sta in mano all'Andrangheta, uno dei nomi che si fa, ma ci sono inchieste sull'Espresso, lo diceva anche il compagno Nader, Fasciani, i Fasciani, no, boss eccetera, e qui c'è dietro tutto un discorso sul traffico di droga e non solo, eccetera eccetera, sui locali, sì ce la troviamo, la prendiamo. A Roma c'è stato un fiorire di locali presi dalla mafia e dall'Andrangheta che dopo magari in un mese, due mesi chiudevano e riaprivano sotto altro nome. Comunque c'è la telefonata. Pronto? Sì, buongiorno a tutti e a tutte, e innanzitutto un saluto a Nunzio, a Marco, a Paolo e Luca e a tutti i compagni, insomma, che sono stati catturati, e tenete duro, e insomma, e qui ci adoperiamo a farvi uscire presto, e ecco, quindi un caloroso abbraccio innanzitutto. E si parlava appunto del Pigneto, il giornalista, insomma, così l'ha citato, perché è successo questo in questi 20 anni, appunto, no? E noi la nostra chiave di lettura ce l'abbiamo, visto che insomma abbiamo vissuto nel quartiere tutte le fasi, da quando l'isola pedonale non c'era ed è stata fortemente voluta come diciamo appunto un punto d'aggregazione di una socialità sana del quartiere, che non ha piazze, perché è stato così, si è sviluppato con un'edilizia improvvisata, neanche del tutto abusiva, ma sicuramente insomma senza nessun tipo di pianificazione, quindi non ci sono piazze, e fino ad oggi. E innanzitutto, al di là di andare a rintracciare nell'investimento della criminalità organizzata sui territori, e quindi parte il narcotraffico, l'acquisto di appartamenti, negozi e quant'altro, che sicuramente è un processo che esiste, è chiaro, è netto e fa parte appunto di un'organizzazione come multinazionali, come il padroncino, come chiunque altro ha soldi, li reinveste in attività che gli raddoppiano, quindi non c'è nessun mistero in questo, insomma. E oltretutto ha l'accumulazione originaria attraverso cioè una riaccumulazione originaria attraverso appunto narcotraffico, prostituzioni, commercio d'armi e tutto quello che insomma fa accumulare tanti soldi in maniera insomma così veloce. Ma a parte questo processo che possiamo dare per assodato, ci sono delle, no, si diceva Rutelli, cioè Vertroni, Rutelli, Vertroni e quant'altro, ma possiamo andare a ragionare su, insomma, su un piano un po' più generale. Ci sono le leggi, c'è sta appunto la liberalizzazione degli affitti, che rende insomma gli sfratti, no, come pratica lecita e quotidiana, senza nessuna calmierazione dei prezzi, senza, cioè, l'equo canone che al suo tempo, insomma, garantiva comunque un certo accesso alla, insomma, avere un tetto per una famiglia o quant'altro. E la liberalizzazione delle licenze ed è motivo per cui in 150 metri al Pigneto, in quella che doveva essere la piazza degli abitanti del Pigneto, per poter così riavvivare le attività artigianali e di commercio di vicinato che stavano in crisi negli anni 90, stavano chiudendo, ed è uno dei motivi per cui fu fatta quell'isola anche in questo, artigiani del legno, del ferro e quant'altro, no? E sono stati sostituiti progressivamente, prima c'era una sorta di città, cioè di strada fantasma, dove appunto c'era l'isola, non c'era più il mercato per come lo conoscevamo, con i banchi fissi di qua e di là, e quindi era qualcosa da vivere, ma a una certura chiudeva e non c'era nulla, e poi i primi, insomma, le prime vinerie, no, la prima così frequentazione piacevole dal punto di vista, insomma, del tempo oltre l'attività produttiva, quella, insomma, che alle 7-8 di sera si chiude, e quindi poter rimanere a mangiare, a bere fino a tardi. Ma il problema è proprio la liberalizzazione, cioè di un progetto economico sulle città che permette che ogni 5 metri ci sia un locale che occupa poi la stessa piazza con i tavolini, tutto a fine del profitto. Questo è un altro elemento, e poi dove c'è il commercio, appunto, che si indirizza verso il divertimento, diciamo così, che apre dalle 7 di sera e chiude alle 4 di mattina, c'è un commercio lecito, c'è un commercio ad alto costo per chi se lo può permettere, 5 euro al bicchiere al tavolino, c'è un commercio a basso costo della birra a Peroni comprata a 1,20 euro dal negoziante, no, del supermarket così a low cost, e c'è il commercio, chiamiamolo illecito, appunto delle sostanze che si acquistano per strada. E tutto. Marco, c'è un'altra telefonata sotto, regolate un pochettino. Vabbè, sto a parlare, ci stanno le telefonate, chi ha parlato, cioè, voglio dire. Vai, però. Ho capito, cioè, si chiamano giornalisti, con tutto rispetto, ma però c'è sta gente che si vive queste dinamiche, e quindi ci stanno questi fatti, e quindi si è voluto comunque in zone come Pigneto e altre, che possono essere monti, che possono essere Trastevere e Testaccio prima, che possono essere Ponte Milvio e via dicendo, mette a profitto il territorio. Il fatto è che a Pigneto se continua a vivere, non ci stanno americani, i giapponesi, i cinesi, insomma, gente che i quattrini, no? E quindi le contraddizioni emergono forte, perché c'è chi si alza alle 4 per andare a mangiare, a lavorare, c'è chi insomma comunque la notte la ancora utilizza per dormire, e questa era la prima fase di questa storia qua. Dopodiché, appunto, l'intensificazione di tutto ciò, di 150 metri messi a profitto totalmente ogni centimetro quadro del pezzo di quartiere, ha scatenato quello che da un anno a sta parte ci stiamo vivendo, ovvero una guerra tra poveri, gente, carne da cannone messa in strada per sfangarsela dentro a sto paese che non ha nessuna prospettiva, a spacciare o anche per accedere a quel poco di lusso che vedeva dal paese proprio, che so, le scarpe belle, i Ray-Ban o quello che sia, no? E chi comunque sia si vive con disagio e con paura, perché anche questo c'è le proprie strade. E chi sta lì che appunto fa sordi con lo sfruttamento del lavoro in nero e quant'altro. c'è chi investe, chi compra appartamenti, chi compra negozi, e questo sta ancora avvenendo. Quindi, cioè, la logica è quella della messa a profitto di ogni ciclo, insomma, no, produttivo e anche del territorio. E che cosa, chi permette tutto ciò sono ste leggi, no? Poi arrivano pure a Bossifini, nonché alla Fini Giovanardi, quindi a quello che permette che ci sia quel tipo di risultato economico sulle sostanze stupefacenti, e permette che ci sta carne da cannone per condurre, insomma, i traffici nei nostri quartieri. Quindi quello che si è innescato poi è una oltre appunto a questi affari continui a tutti i livelli, a una guerra, è una guerra tra poco per l'insostenibilità di una vita all'interno di un fazzoletto di territorio con queste dinamiche. Seguono appunto incazzature, blocchi di strade, richieste e via dicendo, che sfociano purtroppo in richiesta appunto di blindare il proprio quartiere, della sicurezza, delle telecamere, anche della delazione, anche insomma, quindi si rompe il rapporto sociale, no? Il legame sociale comunque alla base di una convivenza, e si è l'uni contro gli altri. E qui arriva a Torpignattara, quello che oggi, perché oggi ci saranno due appuntamenti del territorio appunto sotto scacco in questo modo sta insomma proponendo. Uno è il corteo di Torpignattara, che è alle 5 da Piazza Maranella e per il quartiere, tornando a Piazza Maranella, per ricordare il giovane insomma uomo pakistano ucciso a calci e pugni da un giovanissimo figlio di Torpignattara, 17enne, una cosa drammatica quanto insomma, no, esplosiva. E siamo stati giorno e notte a fare assemblee, insomma, tra tutte le componenti per poter arrivare a questo corteo, che è un banco di prova importantissimo per Torpignattara, potrebbe appunto di non ritorno per quanto riguarda la capacità di reazione e di convivenza di questo territorio, che è una polveriera da sto punto di vista delle tensioni sociali che si generano, perché non ci si riconosce più tra persone che vivono lo stesso disagio, la stessa miseria, la stessa situazione, e siamo riusciti insomma a tenere dentro tutti i competi, e quello che è il messaggio forte di Torpignattara oggi è che rifiutiamo la guerra tra poveri, che non ci avrete mai come ci volete voi uno contro gli altri, che su questo dramma dell'assassinio, della morte di sto ragazzo si tenterà uno scarto per ricostruire insomma una coesistenza e una forza sociale, che andrà a indicare chiaramente quali sono le responsabilità politiche di chi ha soffiato sul fuoco nelle tensioni che si sono creati in questo mese, e che voleva appunto che gli immigrati fossero, no, il soggetto da espellere dal quartiere, o comunque i responsabili, quelli da su cui fare il giro di vite, quelli da cui arrestare e via dicendo, e chi comunque, e non arriviamo soltanto a Marino ma dobbiamo arrivare indietro come qualcuno dice, ha portato questo territorio è sotto questa pressione sociale e psicologica, una densità abitativa più alta in Europa, con i servizi scadenti, vive dentro in venti sottoterra con affitti a strozzo e via dicendo. Quindi una situazione incandescente, ma Torpignattara reagirà, il Pigneto reagirà, Maranella reagirà, e questo corteo è un banco di prova importantissimo, e l'invito è a partecipare oggi pomeriggio. Dopo la sera saremo al Pigneto, lì proprio nel luogo del commercio notturno, proprio con la comunità senegalese di via Campobasso, proprio per riappropriarci delle strade e definire qual è il nostro livello di socialità del quartiere, e quindi andare a indicare anche lì una netta e chiara opposizione alla speculazione commerciale che avviene sul quartiere, e vivremo insomma un momento così di piazza senza il soldo davanti, ma anche andandosi a prendere così la strada e cacciando le dinamiche che poi sono quelle appunto che si raccontava che mettono paura, ci sono aggressioni, prepotenza, tutto ciò viene rifiutato. Va benissimo. Oggi ci sarà uno spettacolo, insomma ci sarà il cinema, ci sarà, è lì dove appunto ci vogliono invece consumatori, e quindi lo slogan proprio non consumare il pigneto vivido, e l'invito è passare questa sera, poi dopo il corteo, insomma dalle 7 ci sarà pure la processione, quindi staremo tutti lì, vedremo insomma chi la spanga. Benissimo, grazie Marco. Prego. Ciao. Un saluto a tutti ai compagni arrestati. Ciao. Allora, ci abbiamo un'altra telefonata che ha aspettato pazientemente. Pronto? Ciao. Dopo questa telefonata ci prendiamo il tempo per chiudere noi. Vai. Allora, sarò brevissima così vi lascio il tempo. Intanto un abbraccio forte a Nunzio, a Giampaolo, Maria, Enrico, a tutti i prigionieri e le prigioniere dentro le carceri romane, dal quartiere Laurentino 38, che è un quartiere che vede lo Stato e le istituzioni soltanto pronte a sgomberare o arrestare le persone, altrimenti c'è una totale assenza rispetto alle condizioni e rispetto alla vita quotidiana dentro la miseria. Io volevo, intanto non sono solita rispondere alle provocazioni, ma volevo rispondere all'ascoltatore che insomma voleva organizzare un'imbarcazione che si dirigesse dall'altra parte del Mediterraneo. A lui e a tutte le persone che vorrebbe assoldare ovviamente consiglio di raggiungere la Nigeria e di fare un bagno dentro l'orrore della devastazione ambientale che viene fatta a firma nostra grazie all'ENI, e quindi consiglio di dirigersi da quelle parti a vedere se c'è una degna accoglienza rispetto agli orrori che facciamo dall'altra parte del Mediterraneo. Dopodiché volevo rivolgermi ai compagni e alle compagne e che sono le persone sicuramente più attente a questa città e ai cambiamenti sociali. Ora penso che all'inizio di quest'estate, e accolgo uno dei pensieri che alcuni compagni facevano in questi giorni dove si dà un gran parlare intorno alla situazione dei territori, che all'inizio dell'estate con l'ordinanza, quella contro la movida, quella anti-alcol, quando abbiamo visto inserire Torpignattara tra i quartieri della movida, dovevamo interrogarci sicuramente di qualcosa. Sicuramente se andiamo a vedere, Torpignattara è un quartiere dove si svolge una vita quotidiana e sociale nella strada, e quando un quartiere viene inserito in un'ordinanza che viene emanata dal sindaco atta a controllare e non rappresenta un luogo di movida, dobbiamo chiederci le ragioni per la quale quel territorio venga inserito, e le ragioni sicuramente sono l'interruzione di quella che è la socialità di strada e il voler colpire quelle che sono le piccole attività portate avanti dagli immigrati. Ora, sicuramente questo rappresenta uno degli esempi che sono vivi in questa città, ma dei quali noi dobbiamo prestare attenzione, rivolgerci delle domande e trovare delle soluzioni. Se pensiamo che i centri sociali che vengono frequentati dai militanti, ma anche diciamo attraversati da persone sensibili, siano un patrimonio per dei territori, ecco, la stessa solidarietà che rivolgiamo ai nostri compagni in carcere dovremmo cercare di rivolgerla all'esterno delle mura dei nostri spazi occupati, cercando di sensibilizzare a quella che deve essere la solidarietà fra sfruttati e sfruttate, senza metterci al centro di quella che è la politica di una città dove i compagni dei centri sociali purtroppo rappresentano diciamo la marginalità, un numero residuale, e quindi senza mettere le nostre esperienze al centro del tutto, ma cercando di uscire e mettere al centro tutto quello che tutte le contraddizioni e tutte le maniere di opprimere che lo Stato sta mettendo in atto non soltanto nei nostri confronti, ma nei confronti degli sfruttati e delle sfruttate. Aggiungo un'unica cosa per chiarire anche sul caso di Corcolle, quello che avviene ai richiedenti asilo in Italia è vengono incastrati in un limbo giuridico. Pensate che devono aspettare addirittura fino a 36 mesi, 3 anni, per poter essere ricevuti da una commissione che ha la possibilità o meno di respingere quella domanda di richiesta d'asilo. Nel frattempo queste persone non possono fare alcun lavoro e vengono incastrate da tutte le cooperative che gestiscono questi centri a fare il lavoro per queste cooperative. E sono persone che non possono lasciare il territorio italiano perché, secondo l'accordo di Dublino, queste persone devono svolgere tutte le pratiche burocratiche nel primo paese d'ingresso. È per questo che molti di loro che riescono a oltrepassare i confini dell'Italia vengono poi rispediti qui per fare tutte le pratiche. Quindi domandiamoci anche quali sono i problemi, quali sono le leggi che impediscono a queste persone di costruirsi un'altra vita altrove, perché comunque nella situazione in cui ci troviamo e l'esempio che faceva il giornalista poco fa rispetto alle persone rom che vengono espulse dalla città e costrette nei recinti, avviene non solo nei confronti delle persone rom, non solo nei confronti delle persone migranti, ma anche nei confronti delle persone povere che vengono sempre più espulse da alcuni quartieri. Quindi facciamoci delle domande concrete, cerchiamo appunto di non guardare soltanto il problema alla superficie e di andare a fondo nei problemi. E quindi io vi saluto e non voglio rubarvi altro tempo. Benissimo, ti ringraziamo, ciao. Allora, non prendiamo più telefonate per evitare, no, commenti di essere smorzati, però mi va da precisare una cosa. È chiaro che il disastro di Roma non è Marino. Marino è la continuazione di chi l'ha cominciato, questo sacco di questa città, perché Marino non ha orientato diversamente una cosa. A me di Marino, come sindaco, mi ricordo e mi va da rinfacciare a lui, al vice e a tutta la giunta, che in questa città ci abbiamo avuto nell'indifferenza, senza come a loro insaputa sembrava che capitavano lo sgombero del Volturno, lo sgombero del Teatro Valle, lo sgombero del Cinema America, gli sfratti che vengono persino fatti lanciando i lacrimogeni nelle trombe delle scale, violenti. E il comune, come quello che accade in questa città, restava indifferente. La polemica era l'isola pedonale a Piazza di Spagna o a Piazza del Popolo, la bicicletta, perché lui è sportivo, va in bicicletta, cioè è tutto questo che avveniva, niente. In più, nell'indifferenza di questa giunta, ci abbiamo in carcere chiusi Luca e Paolo, che la vertenza con queste amministrazioni l'hanno sempre portata avanti per l'emergenza abitativa. Abbiamo in carcere per antifascismo e difesa dei compagni Marco e Nunzio. Nell'indifferenza, sto sindaco non c'è niente da dire. Io mi ricordo questo. Dopodiché, al sindaco gli voglio ricordare che a Gorgolle ci sono dei scavi archeologici interessanti che riguardano la zona, come si chiama, di Villa Adriana. Sono molto interessanti, si andrebbero valorizzati, qualche pullman di turista ci potrebbe arrivare, e non solo spedire lì l'emarginazione sociale. E gli ricordo pure che anche poi Ponte di Nona, così devastato e costruito senza aumentare strade o pullman, ci hanno messo 50.000 abitanti in più. Ponte di Nona è il ponte più antico sano di Roma, sta su via Prenestina, è coperto perché ci hanno fatto passare la strada sopra, però il ponte romano si chiama così, Ponte di Nona, perché era al nono chilometro di via Prenestina, costruito dall'antica Roma. Anche quello andrebbe valorizzato. Però ci troviamo altre situazioni, cioè la barcaccia è importante, ma anche quella pezzo di storia di quella zona, se qualcuno studia archeologia o antica Roma sa che via Prenestina, no, è pieno di reperti archeologici. Beh. Senti, Ettore, per c'è una telefonata, ma la prendiamo? Non lo so. Io c'ho da dire, però sai, la priorità sono le telefonate. Allora io. Sì. Vabbè, no, aspetta, Ettore, voglio far capire a chi ci ascolta che c'è una telefonata, non deve parlare. Allora, Ettore, qui, siccome stiamo a conclusione, diciamo, pure di questa puntata, di questa trasmissione, noi purtroppo, noi che stiamo qui, ma anche chi ci ascolta, sa da tempo che Roma, ma questo non vale solo per Roma, io l'ho detto all'inizio, vale per tutte le grandi città, diciamo, italiane, è una città non solo degradata, Roberto, ma è una città anche assediata. Questa è una città assediata, è assediata dal malaffare. Le telefonate che ci sono state oggi ne sono state anche una larga testimonianza. C'è un'altra telefonata, l'ultima, ci scusiamo con gli ascoltatori ma non ne abbiamo più, vai. Scusate se intervengo, ma questa mattina dopo essere intervenuto alla radio, come ho fatto un'ora fa, ho dato una scorsa ai giornali e ho visto una cosa che un po' mi ha fatto arrabbiare, passatemi, lo dico proprio con tutta la calma del mondo. Questa vicenda che nello specifico riguarda Nunzio è una vicenda legata a un'iniziativa istituzionale contro l'omofobia nelle scuole. Milizia Cristi si è presentata a volantinare, a provocare, ad aggredire i compagni che si trovavano, anzi le persone e i compagni, perché c'erano anche persone che non si possono definire compagni, che stavano all'interno del settimo municipio. Questa mattina noi abbiamo fatto delle iniziative in questi giorni, io non ho ancora letto un comunicato forte, serio, da parte della comunità GLBT, da parte del Gay Village, da parte del Mario Mieli, da parte della Gay Strip, da parte di queste grandi arcigay organizzazioni che di omofobia si occupano. Nunzio è in galera per aver difeso questa roba qua, e io leggo questa mattina sui giornali che Vladimir Luxuria e quelli del Gay Village ieri hanno ospitato all'interno della loro iniziativa al Gay Village la fidanzata di Berlusconi, e non hanno ancora scritto una parola pubblica su questa vicenda. Nunzio si è speso sempre, per chi lo conosce, su queste questioni, e questi invitano e fanno le passerelle con la fidanzata di Berlusconi e sulla carcerazione di Nunzio non hanno scritto ancora un comunicato. Beh, questo è per indignarsi, ragazzi, questa roba qua però non è possibile. Scusate, volevo solo sottolineare questo, perché hai fatto benissimo, perché qualcuno si rende conto perché con qui, vedi, intorno con chi ci abbiamo a che fare intorno a queste questioni. Intorno a queste questioni, queste degli arresti, dei processi, c'è un assordante silenzio. Tu hai fatto benissimo a ribadire questa questione, c'è una totale assenza anche di coloro che dovrebbero essere in prima fila. In una telefonata precedente e anche nelle parole di Ettore denunciava anche l'assordante silenzio del Comune di Roma circa lo stato di fermo agli arresti domiciliari di Paolo e di Luca. Ma io dico una cosa, c'è qualcosa di peggio, cioè a livello della massima istituzione del Parlamento non si leva una voce. Ma non dico per difendere gli arrestati o per difendere determinate posizioni, ma almeno per sapere da parte del Ministro dell'Interno perché ci sono stati questi arresti e perché si procede con questi processi, che tra l'altro hanno tirato fuori anche nuove figure giuridiche, degli aborti giuridici, quando ci sono stati emanati i capi di imputazione. Non si leva una voce. Non si leva una voce, passa tutto nel totale silenzio. Questo è un fatto di una gravità inaudita. Quello che resta di questo straccio di democrazia in questo paese sta per essere spazzato ulteriormente via. Dà fastidio pure ciò che resta di quel poco di democrazia in questo paese, per cui nessuno si va peritando di ciò che succede anche da questo punto di vista. Ma Serafino, io aggiungo pure il fatto che praticamente c'è stato un silenzio assordante pure sulla manifestazione per la Palestina. Io nessun TG, no, ne ho visti alcuni, nessuno ha riportato manco mezza parola, e anche i giornali, insomma, solo qualcuno ha riportato il trafiletto. Ma di più, ma dal Parlamento italiano, dalle cosiddette forze di sinistra, si è levata una voce di condanna sul massacro di Gaza che ha visto più di 2000 morti? Ma io dico, insomma, mi pare chiaro che lo scenario è questo, cioè qui sono tutti complici, sono tutti appiattiti, fanno le guerre soltanto sulle questioni di bottega che gli interessano, allora li strillano, urlano, fanno, poi dopodiché sui grandi fatti, sui fatti importanti, quelli che appunto hai ricordato, quelli che ho detto anch'io, non c'è più una voce. Almeno una volta avevano il pudore, anche se non ci credevano, di dire qualche parola quando c'erano appunto le aggressioni verso il popolo palestinese, no? Qualche mozione, qualcosa, in qualche consiglio comunale, provinciale, niente, non c'è stato nulla. Allora, questo dà il quadro della situazione. Per quanto riguarda Roma, e chiudiamo su Roma, solo per adesso ovviamente, la questione è legata da una parte al malaffare politico e dall'altra al malaffare della malavita, perché i soldi della mafia, dell'andrangheta, alimentano l'economia. Ora che la città in buona parte sia in mano alla malavita organizzata, quindi qui non stiamo a parlare del piccolo, della microcriminalità, ma chi effettivamente poi ha le mani sulla speculazione edilizia, quella dei negozi, che controlla l'usura, che controlla il traffico di stupefacenti, eccetera eccetera. E questi due malaffari si intrecciano spesso e volentieri, e comunque esistono perché c'è una connivenza. A Ostia ci sono fior di inchieste su le mani malavitose che sono su Ostia. Ricordiamoci tutta la questione delle concessioni delle spiagge, delle concessioni balneari, ma insomma tutta sta roba qui messa insieme, che adesso stiamo dicendo in maniera rapidissima perché qui dovremmo affrontarla una per una, insomma danno il quadro di una situazione che non può essere che disastrata, perché se ci fosse un'amministrazione trasparente, democratica, la malavita non avrebbe spazio. Ma siccome gli serve la malavita, no? E poi dopo è chiaro che tutto funziona così. Ultima cosa sui curdi. Allora, sono fuggiti più di 100.000 curdi verso la Turchia per gli assalti dell'ISIS. Allora, il problema che si sono posti questi signori dell'Occidente qual è stato? È stato: che facciamo, armiamo i curdi? Eh no, perché se armiamo i curdi per fronteggiare l'ISIS, poi c'è il pericolo, no, che insorga uno stato curdo. E questo non fa piacere alla Turchia, non fa piacere a altri paesi in cui è spartita. E infatti la Turchia si sta preparando per entrare, allora, con le truppe sue. E allora, infatti, e allora a questo punto però si è posto il problema, dice qui o armiamo i curdi o intervenite voi, cari turchi. E ora sembra che i turchi siano intenzionati a mettere anche la loro potenza militare in campo. Ma è storia, alla fine gratta gratta sono sempre queste. Allora, ai curdi l'Italia ha mandato qualche migliaio di Kalashnikov, oltretutto armi sequestrate ai tempi della guerra nei Balcani, con una dotazione di munizioni che praticamente per ogni arma dura sì e no 10 minuti. Potete immaginare, no, che gli abbiamo mandato. Ma allora questi devono fronteggiare un esercito particolarmente agguerrito, feroce, organizzato, che, come ricordava anche Vincenzo, insomma, che possiede tank, mezzi meccanizzati, lanciamissili, di tutto e di più, e questi poveracci vanno là col moschetto 91 o al massimo con Kalashnikov, che però come spara no, vista l'intensità con cui spara, praticamente le munizioni che gli abbiamo mandato gli durano 4 minuti e poi devono andare all'arma bianca. Questa è la situazione. Ah, vabbè, so, questi sono i temi, no? Abbiamo fatto questo discorso proprio per dire che se il ribellione ci deve essere in questi quartieri, guardate per bene intorno a individuare i responsabili, che non sono quelli che ci vivono nel loro, insieme a voi al disagio, ma chi quel disagio lo provoca, chi che al posto di portare servizi dentro i quartieri ci concentra l'emarginazione sociale non curando per niente i servizi. L'abbiamo ripetuto, era il discorso che ogni tanto Roberto ci ricorda, noi lo sappiamo, ma non lo sa la gente, dato che non tutti ascoltano pure questa radio. Io mi viene le volte come fantasia che dovremmo riprendere il gusto di fare quello che si faceva una volta, i tazzebao, i giornali parlati, fammi canta storie, andiamo e spieghiamo quartiere per quartiere. Questa è la riconquista del quartiere, che chi le tiene a quelle condizioni, chi sono i responsabili. E i responsabili, noi lo sappiamo, la corruzione, la ruberia, la malavita, e noi dobbiamo spiegare che se c'è da alzarsi a fare un promo, non è al centro di accoglienza dei rifugiati politici, ma magari si trova in un'altra zona, Piazza del Campidoglio, oppure a Parlamento, perché lì fanno finta di niente dalle cose che succedono. Si dovrebbe fare l'inchiesta quartiere per quartiere in maniera seria e a capire che diavolo succede, e dopodiché rendere pubbliche queste cose e chiaramente no. ampliarle. Aprire dibattiti, confronti, io credo che questa sia la strada. Io sono sicuro che sia a Gorgolle, che a Torpignatara, a Montesacro, a Laurentino 38, non c'è uno che non ha bestemmiato qualche volta perché è rimasto all'improvviso davanti a una buca da una strada o col cassonetto pieno che vengono ruspati dai cani randaggi. No, l'hanno fatto vedere, ci andavano a pascolare i maiali nell'indifferenza totale. Quella colpa è dei maiali che sono andati a ruspare o di chi ha messo quelle condizioni. Allora individuiamo questa situazione, noi la responsabilità la sappiamo, e penso che i compagni, che saremo pochi ma siamo anche determinati, bisogna che la prendiamo in mano e l'assumiamo. Io penso che in questo modo noi, diciamo, sospendiamo la trasmissione di oggi, però ci ritorneremo e io vi voglio far ascoltare un altro pezzo di chi le lotte le fa e se le rivendica, che sono emozionanti. Anzi, vi ricordo di andarla a vedere sul sito dei Non Tav, c'è sta un pezzo che dura un quarto d'ora, ci sono queste dichiarazioni di questi compagni che stanno in galera ormai da un anno e rivendicano, siamo noi i responsabili, e spiegano perché si rivendicano la responsabilità. Dovremmo avere questo coraggio. I motivi che mi hanno spinto in Val di Susa a prendere parte a questa lotta sono tanti. I motivi che mi hanno spinto a restare e continuare su questa strada sono ben di più. In mezzo c'è un percorso di maturazione collettiva, di assemblee pubbliche e private, di campeggi e presidi, di confronto e scontro. In mezzo c'è la vita, quella di tutti i giorni, quella delle alzatacce e delle nottate insonni, della cola secca sui pendii rocciosi e dei pasti frugali, dei piccoli impegni e delle grandi emozioni. In questo percorso chi lotta ha imparato la precisione del linguaggio, a chiamare le cose per quelle che sono e non per l'involucro formale con cui si pubblicizzano, come un cantiere che prima era un fortino e ora sta diventando una fortezza. Parole in grado di restituire il portato emotivo e l'impatto sulle proprie vite di determinate scelte della controparte, di chi ha deciso di invischiarsi in questa grande opera. Parole rispolverate da un lessico che sembrava antico e invece si riscoprono in tutta la loro potenza e semplicità nel descrivere le proprie azioni. Un'accortezza di linguaggio che mi accorgo non essere così diffusa nel mondo circostante, quando leggo di improbabili commando che secondo una certa ricostruzione propinata anche dai giornali avrebbero assaltato il cantiere nella notte del 13 maggio. Una parola quanto mai infelice, non solo per il suo richiamo all'atto del comandare, ma anche per una certa allusione mercenaria, inaccettabile, di chi sarebbe disposto a qualsiasi mezzo pur di raggiungere il proprio fine. Di contro, chi lotta ha imparato a convogliare con intelligenza persino le passioni forti e roente che nascevano dai tanti colpi subiti, quando un amico perdeva un occhio per via di un lacrimogeno o un altro era in fin di vita. Per quanto mi riguarda, la Val Clarea è mia amica fino a quando nel 2011 rilanciavamo la terra a mani nude nei buchi scavati dalle ruspe durante gli allargamenti del cantiere. Ricordo che tra le tende di quel campeggio echeggiava una canzone, tra le tante inventate per divertirsi e darsi forza, sulle note di un vecchio canto partigiano. Il primo verso recitava «Dai boschi di Giaglione uniti scenderemo». In questi anni molte volte è stato dato seguito e rilanciato quelle parole. E qualcuno in quella notte di maggio ha deciso di farlo con altrettanta convinzione, e io ero tra loro, una delle voci dietro quel telefono è la mia. Ma soffermarsi su una responsabilità personale, per tessere non meno le lodi, non è in grado di restituire quel sentimento collettivo maturato nelle case di tante famiglie, di valle e di città, o tra una chiacchierata e una bevuta in un bar, nelle piazze e nelle strade, nei momenti conviviali come in quelli più critici. Un sentimento che ha saputo esprimersi in uno degli slogan più gridati dopo i nostri arresti e che descrive bene la vera appartenenza di quel gesto. Dietro quelle reti c'eravamo tutti. Uno slogan che ci riporta direttamente a un'assemblea popolare tenutasi a Bussoleno nel maggio 2013, con cui l'intero movimento salutava e accoglieva quel gesto chiamandolo sabotaggio. E se dietro quelle reti c'eravamo tutti, dietro queste sbarre un pezzetto di ognuno ha saputo sostenerci e darci forza. Per questo, anche qui, qualunque siano le conseguenze delle nostre azioni, ad affrontarle non saremo soli. Penso che sia sufficiente la conclusione.